Con Matteo Pavesi di Cineteca Milano per sapere i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2023 e anche fare qualche considerazione sulla direzione che sta prendendo il cinema e la fruizione della sala. Matteo, ben trovato. Bene, ben trovato, grazie di questo invito. Beh, diciamo che l'anno 2023 è stato un anno importante per il cinema, perché si sono affacciati in sala dei film internazionali molto belli, ma anche film italiani di valore, che hanno tra l'altro riportato le persone al cinema. Per cui questo è un anno sicuramente che possiamo definire un anno davvero post-pandemico, in cui il cinema è ritornato ad avere un peso, insomma, nella nostra vita. Ecco. Dal nostro osservatorio cinetecario di programmazione abbiamo anche noi, pur andando a coprire una nicchia di mercato molto specialistica, registrato un importante aumento di presenze, interesse, di attenzione, di affezione alla sala, perché prima di tutto, al di là dei film che la distribuzione offre, è stato importantissimo che si ritornasse in sala, si riapprezzasse il cinema al cinema, e questo è il dato secondo me più significativo. Tra i film che sono usciti, insomma, quest'anno, la mia personale classifica vede, insomma, al primo posto Anatomia di una caduta, che ritengo sia uno dei lavori davvero più belli, più affascinanti di quest'anno. Un thriller, ma in realtà qualcosa di più da un punto di vista psicologico e di relazioni familiari, qualcosa di molto più stratificato. Poi segnerei assolutamente Oppenheimer per la regia, ma anche per il valore e l'attualità del film, e poi il ritorno di Woody Allen, che ha scaldato il cuore a tutti e ci ha dimostrato come un quasi novantenne riesce ancora a farci ridere proprio e a tenerci anche in tensione, perché i film di Woody Allen belli poi sono questi meccanismi a spirale davvero molto, molto coinvolgenti. E poi ci sono film più piccoli, che a me sono piaciuti molto. Da una parte un esordio alla regia italiano, che è appunto La Palazzina Laff di Biondino, che è un film politico molto severo, girato con grande maestria e con grande cura. È un film quasi militante, come non se ne vedevano da tanto tempo. E poi, come ultimo, sono un po' incerto tra due film affascinanti per motivi diversi. Io farei un ex aequo tra Il cielo brucia di Pexod, che è un film che purtroppo non è stato molto visto in sala, ma magari capita di riprenderlo in qualche rassegna e ve lo consiglio. È davvero una sorta di Romera alla tedesca, molto bello. E poi di Tamaguchi, appunto, Il male non esiste, che è un altro film sorprendente. E questi due, insomma, li metterei, insomma, un po' ex aequo. Poi ci sono dei film che hanno avuto un enorme successo e che io ho apprezzato, ma non mi hanno conquistato da un punto di vista cinefilo, e sicuramente però va segnalato il lavoro di Garrone, perché sta appunto facendo la sua strada anche verso gli Oscar. E poi il film della Cortellesi, un successo clamoroso, che sicuramente pone delle domande, perché il film può anche non convincere del tutto, però ha avuto un così largo successo, per cui la domanda è non quanto il film sia riuscito, ma come mai ha avuto questo enorme successo. E su questo, secondo me, come si dice alla fine di alcuni film in cinetica, il dibattito è ancora molto molto aperto. Ci sentiremo nel corso dell'anno. Auguri. Grazie a voi, auguri.